Lungo le scarpe riallaccio, per te da sola ti aspetto. Che quando son sola mi abbraccio, come le braccia si intende. Che chiudo negli occhi mi è il ghiaccio, il solto cade per sempre. Su un posto che io non ho amato, un posto che non mi appartiene. Ma non so che fissa c'ho, ti cerco come un antidoto. Come scala su una cima e mo non so più dove la mia persona. Dentro una pista da ballo, come un duo dentro uno specchio. Mi trovo da sola e scompaio, come un dolore perfetto. Ma resto in equilibrio sopra rapide. Penso che ho finito anche le lacrime. E io non so più dire S in mezzo alle persone. Io voglio andarci appresso. Non mi troverai, non mi troverai. Penso che ho finito quello che ho di te. Stringo le scarpe e rinciampo sulle mie stesse incertezze. Poi stesa dal sofà mi rialzo. È freddo come a dicembre. Io voglio poi dirmelo in faccia. Apro i miei occhi, son tente. Che vanno stupidi un miraggio. Che mi risveglia e sorprende. Ma che non sono la stessa. Cambio costante, sono certa. Perché chi cambia lancia te le spezza. Mentre mi fermo, ritrovo il tempo. Mentre ritrovo me stessa. Tutto sto modo che gira, conosco le stelle che ho dentro la testa. E forse sento quello che ho dentro. Resto in equilibrio sopra rapide. Penso che ho finito anche le lacrime. E io non so più dire adesso, mezzo alle persone. Io voglio.